Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan tornò a casa di corsa e benché fossero passate le 3 del mattino e dovesse attraversare i peggiori quartieri di Parigi, non fece nessun cattivo incontro. Si sa che c'è un Dio per gli ubriachi e per gli innamorati. Trovò la porta del suo andito socchiusa, salì la scala e bussò piano nel modo stabilito fra lui e il suo servitore. Planchet, da lui rispedito via dall'Hôtel de Ville 2 ore prima, con la raccomandazione di aspettarlo, venne ad aprirgli la porta. «Qualcuno ti ha portato una lettera per me?» chiese subito D'Artagnan. «Nessuno ha portato una lettera, signore», rispose Planchet, «ma ce n'è una che è venuta da sola». «Che vuoi dire, imbecille?» «Voglio dire che rientrando, benché avessi in tasca la chiave del vostro alloggio e che questa chiave non mi avesse mai abbandonato, ho trovato una lettera sul tappeto verde del tavolo della vostra stanza da letto». «E dov'è questa lettera?» «L'ho lasciata dov'era, signore. Le lettere normalmente non entrano in questo modo in casa della gente, se almeno la finestra fosse aperta o socchiusa, ma no, tutto era ermeticamente sbarrato. Signore, state attento, perché certo vi è sotto qualche magia». Intanto il giovanotto si precipitava nella stanza e apriva la lettera. Era di Madame Bonacieux e così concepita. «Vi si devono fare e trasmettere vivi ringraziamenti. Trovatevi stasera verso le 10 a Saint-Cloud, di fronte al padiglione che sorge all'angolo della casa di Messier des Estrées. C.B.» Mentre leggeva la lettera, D'Artagnan sentiva il cuore allargarsi e stringersi per quel dolce spasimo che tortura e accarezza il cuore degli amanti. Era il primo appuntamento che gli veniva accordato. Il suo cuore, gonfio di gioiosa ebbrezza, stava per venir meno sulla soglia di quel paradiso terrestre che si chiama amore. D'Artagnan lesse e rilesse il biglietto, poi baciò e ribaciò 20 volte le parole tracciate dalla mano della sua bella dama. Infine si coricò, si addormentò e fece sogni d'oro. Alle 7 della mattina si alzò e chiamò Planchet, che alla seconda chiamata aprì la porta con la faccia ancora mal ripulita dalle inquietudini della sera prima. «Planchet», disse D'Artagnan, «esco forse per tutta la giornata, perciò sei libero fino alle 7 di sera, ma a quell'ora tienti pronto con 2 cavalli. «Diamine», disse Planchet, «a quanto pare ci faremo ancora sforacchiare la pelle. Prenderai il moschetto e le pistole». «Ecco, cosa dicevo?» esclamò Planchet. «Ne ero certo. Maledetta lettera!» «Se avete paura, monsieur Planchet», aggiunse D'Artagnan, «andrò senza di voi. Preferisco viaggiare solo che avere un compagno con la tremarella». «Il signore mi offende. Eppure mi pareva che mi avesse visto all'opera, sì, ma ho creduto che avessi esaurito tutto il tuo coraggio in una volta sola. Il signore vedrà che all'occasione me ne resta ancora. Soltanto prego il signore di non sperperarlo troppo, se vuole che mi duri un po' a lungo. Credi di averne ancora una certa quantità da spendere stasera?» «Lo spero. Conto su di te». Sulla porta c'era Bonacieux. L'intenzione di D'Artagnan era di passare oltre senza rivolgere la parola al degno merciaio, ma costui fece un saluto così gentile e mellifluo che l'inquilino fu obbligato non solo a restituirglielo, ma anche a far 2 chiacchiere con lui. E d'altronde, come non essere un tantino condiscendente verso un marito la cui moglie vi ha dato un appuntamento la sera stessa a Saint-Cloud? D'Artagnan si avvicinò con il viso più amabile che poté. Il discorso cadde naturalmente sull'incarcerazione del poveretto. Bonacieux si dilungò ampiamente sulla Bastiglia, i cavistelli, le porte, le feritoie, le inferriate e gli strumenti di tortura. D'Artagnan l'ascoltò con esemplare compiacenza, poi quando ebbe finito chiese: «E Madame Bonacieux, sapete chi l'avesse rapita? Perché non dimentico che a quella sgradevole circostanza debbo la fortuna di aver fatto la vostra conoscenza». «Ah», rispose Bonacieux, «si sono guardati bene dal dirmelo, e dal canto suo mia moglie mi ha giurato e spergiurato che non lo sapeva. Ma di voi», continuò con tono di assoluta bonomia, «che ne è stato di voi nei giorni scorsi? Non vi ho veduto né voi né i vostri amici, e non è sul selciato di Parigi, immagino, che avete raccolto tutta la polvere che Planchet toglieva ieri dai vostri stivali». «Avete ragione, mio caro Monsieur Bonacieux. I miei amici e io abbiamo fatto un viaggetto. Lontano di qui? Oh mio Dio! No, a una quarantina di leghe soltanto. Siamo stati ad accompagnare Monsieur Athos ai bagni di Forges, dove i miei amici si sono trattenuti. E voi? Voi siete tornato, vero?» riprese Bonacieux, cercando di rendere la propria fisionomia quanto più possibile maliziosa. «Un bel ragazzo come voi non ottiene lunghi permessi dalla propria amante, ed eravamo attesi con impazienza a Parigi, no?» «Perbacco», ribatté ridendo il giovane, «ve lo confesso, mio caro Bonacieux, tanto più che a voi non si può nascondere nulla». «Sì, era aspettato, e con molta impazienza, ve lo garantisco». Una leggera nube passò sulla fronte di Bonacieux, ma così leggera che D'Artagnan non se ne accorse. «E verremo ricompensati della nostra diligenza?» continuò il merciaio con voce lievemente alterata, che D'Artagnan non notò più di quanto avesse notato la nube passeggera che un attimo prima aveva oscurato la faccia del degno uomo. «Ah, ah! Fate l'ipocrita!» disse ridendo D'Artagnan. «No, se ve ne parlo è soltanto per sapere se rincaserete tardi». «Perché questa domanda, mio caro Bonacieux?» chiese D'Artagnan. «Contate forse di aspettarmi?» «No, ma dopo l'arresto e il furto commesso in casa mia, mi spavento ogni volta che sento aprire una porta, e soprattutto di notte. Per Diana, che volete? Non sono uno spadaccino, io». «Allora, non spaventatevi se rientro all'una, alle due o alle tre del mattino, e non spaventatevi neppure se non rientro affatto». Questa volta Bonacieux si fece talmente smorto che D'Artagnan non poté fare a meno di accorgersene e gli chiese cosa avesse. «Niente», rispose l'altro, «niente. Però dopo le mie disavventure vado soggetto a mancamenti che mi prendono di colpo, e adesso mi sono sentito un brivido. Non badateci, preoccupatevi solo di essere felice. Allora l'occupazione ce l'ho, perché sono felice». «Non ancora, aspettate. Avete detto stasera? Ebbene, stasera verrà, grazie a Dio, e forse voi l'aspettate con la mia stessa impazienza. Forse stasera Madame Bonacieux visiterà il domicilio coniugale». «Madame Bonacieux stasera non è libera», rispose serio il marito. «È trattenuta al Louvre dal servizio». D'Artagnan si diresse al palazzo di Monsieur de Tréville. La visita del giorno prima era stata, lo sappiamo, brevissima e assai poco esplicativa. Lo trovò tutto gongolante. Il re e la regina al ballo erano stati con lui affabili. Il cardinale, invece, era stato quanto mai imbronciato. All'una del mattino si era ritirato con il pretesto di un'indisposizione. Le loro maestà, invece, erano rientrate al Louvre soltanto alle 6 del mattino. «Adesso», disse Monsieur de Tréville, abbassando la voce e frugando con lo sguardo ogni angolo della stanza per accertarsi che fossero completamente soli, «adesso parliamo di voi, mio giovane amico, perché è evidente che il vostro felice ritorno è in qualche modo legato alla gioia del re, al trionfo della regina e all'umiliazione di sua eminenza. Si tratta ora di stare in guardia». «Che ho da temere?» rispose D'Artagnan. «Finché avrò la fortuna di godere del favore delle loro maestà. Tutto, credetemi. Il cardinale non è uomo da dimenticare una beffa finché non avrà regolato i conti con chi gliel'ha giocata. E costui all'aria di essere un certo guascone di mia conoscenza. Credete che il cardinale la sappia lunga quanto voi e sappia che sia stato io ad andare a Londra? Diavolo, siete stato a Londra. È da Londra che avete portato quel bel brillante che vi luccica il dito. Attento, caro D'Artagnan, non è una bella cosa il dono di un nemico. Deve esserci in proposito un verso latino. Aspettate un po'. Sì, certo, fece D'Artagnan, che mai aveva potuto cacciarsi in testa le regole più elementari della grammatica e che, per la sua ignoranza, aveva ridotto alla disperazione il suo precettore. Sì, certo, deve essercene uno. «Ce n'è di sicuro uno», disse Monsieur de Tréville, che aveva un'infarinatura di lettere. «E Monsieur de Benserad me lo citava l'altro giorno, ma aspettate. Ah, ci sono! Timeo Danaos et Dona Ferentes, il che significa diffidate del nemico che vi fa dei regali. Questo brillante non è dono di un nemico, signore, rispose D'Artagnan. Me lo ha dato la regina. La regina! Oh, oh! Esclamò Tréville. Effettivamente è un vero gioiello regale che vale a dir niente 1000 pistole. Da chi la regina vi ha fatto consegnare questo dono? Me l'ha consegnato lei stessa. In che modo? Porgendomi la sua mano da baciare. «Voi avete baciato la mano della regina!» esclamò Monsieur de Tréville guardando D'Artagnan. «Sua maestà mi ha fatto l'onore di accordarmi tale grazia. E questo in presenza di testimoni? Imprudente! 3 volte imprudente. No, signore, rassicuratevi, nessuno l'ha veduta. E D'Artagnan narrò a Tréville come si erano svolte le cose. Ah, le donne, esclamò il vecchio soldato. Conosco la loro fantasia romanzesca. Tutto ciò che sa di mistero le affascina. Così ne avete veduto il braccio, tutto lì. Potreste incontrare la regina e non la riconoscereste, e lei, incontrandovi, non sapere chi siete. No, ma grazie a questo diamante, soggiunse il giovane, sentite, disse Tréville, volete che vi dia un consiglio? Un buon consiglio? Un consiglio da amico? Sarà un onore, signore, rispose D'Artagnan. Ebbene, andate dal primo orefice che vi capita e vendetegli il diamante al prezzo che vi offrirà. Per quanto ebreo sia, riuscirete sempre ad averne 800 pistole. Le pistole non hanno nome, giovanotto, e quell'anello ne ha uno terribile che può tradire colui che lo porta. Vendere quest'anello, un anello che mi ha dato la mia sovrana? Mai, disse D'Artagnan. Allora portatelo con il castone voltato all'interno. Pazzo che siete! Perché si sa che un cadetto di Guascogna non trova gemme simili nello scrigno di sua madre. Allora, chiese D'Artagnan, voi credete che io abbia qualcosa da temere? Giovanotto, intendo dire che chi s'addormenta su di una mina con la miccia accesa sta al sicuro in confronto a voi. Credete a un uomo che da 30 anni vive a corte. Non addormentatevi nella vostra sicurezza o siete perduto. Anzi, e ve lo dico io, dovete vedere nemici dappertutto. Diffidate di tutti, del vostro amico, di vostro fratello, della vostra amante, soprattutto di quella. D'Artagnan arrossì. Diffidare della mia amante, ripeté macchinalmente. E perché di lei più che di un altro? Perché l'amante, disse Treville, è uno dei mezzi favoriti del cardinale. D'Artagnan pensò all'appuntamento che gli aveva dato Madame Bonacieux quella sera stessa. Ma dobbiamo dire, a lode del nostro eroe, che la cattiva opinione che Treville aveva delle donne in generale non gli ispirò il minimo sospetto nei confronti della sua graziosa padrona di casa. «Ma a proposito», riprese Treville, «che ne è stato dei vostri 3 compagni?» «Li ho lasciati per strada. Porthos a Chantilly, imbarcato in un duello. Aramis a Crèvecoeur, con una pallottola nella spalla, e Athos a Amiens, con un'accusa di falsario che gli pendeva sul capo. Vedete, disse Treville, e voi? Voi come l'avete scampata? Per miracolo, signore, devo dirlo, con una sciabolata nel petto e inchiodando il conte di Vard sul ciglio della strada di Calais come una farfalla a una parete. Ecco, vedete? De Vard, una creatura del cardinale, un cugino di Rochefort. Sentite, amico mio, mi viene un'idea. Dite, signore, al vostro posto farei una cosa. Quale? Mentre Sua Eminenza mi fa cercare a Parigi, al posto vostro io riprenderei alla catichella la strada di Piccardia e andrei a informarmi della sorte dei miei 3 compagni. Diavolo, mi sembra che meritino questa piccola attenzione da parte vostra. Il consiglio è buono, signore, e domani partirò. Domani? E perché non stasera? Stasera, signore, sono trattenuto a Parigi da un impegno improrogabile. Ah, giovanotto, giovanotto, qualche amorazzo! Attenzione, ve lo ripeto, è la donna che ci ha perduti tutti quanti siamo e che ci perderà ancora tutti quanti siamo. Credetemi, partite stasera. Impossibile, signore. Avete dato la vostra parola? Sì, signore, allora è diverso. Ma promettetemi che se non verrete ucciso stanotte, partirete domani. Ve lo prometto. Allora, buon viaggio. Grazie, signore. E D'Artagnan si congedò da Monsieur de Treville. Paolo Bonacelli ha letto I 3 moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.